numeri sul braccio come un messicano. Niente pappagallo, porto in spalla il diablo. Non sei una camicia ma noi te stiramo. Chiedila al mio amico, puoi chiamarlo Pablo. Lascio macchie rosse sparse nello studio. Bucatini, maccheroni, pasta al sugo. Poggiato da 6 ore sullo stesso muro. Questo suono mi fa diventare scemo. Chiama i pompieri, ogni sera famo il fuoco. Come un giamaicano farebbe ad un frocio. Sozzo il pavimento, hai bisogno di un mocio. I tuoi amici puzzano di latte, danno il mocio. Hai numeri sul braccio come un cazzo di ebreo. Una troia sul mio cazzo lo cavalca come a rodeo. Mangio solo Ringo, non prendo quei fottuti oreo. Sto tra le braccia di sta troia, fanculo a Morfeo. Da capelli rossi va forte come una Ferrari. Fuori c'è la luna piena per strada coi lupi mannari. Giovani geni pronti per morire dopo dei 20 anni. Piuttosto che la sveglia presso il cantiere mi faccio 20 anni. Numeri sul braccio come un messicano. Giro per la strada con i miei hermanos. Ansia, pacche e buffi, tutto ciò che abbiamo. 1, 2, 6, il nostro corano. Numeri sul braccio come un messicano. Giro per la strada con i miei hermanos. Ansia, pacche e buffi, tutto ciò che abbiamo. 1, 2, 6, il nostro corano. Scritte sulle braccia come un messicano. In giro per la zona con i miei hermanos. Fumiamo canne d'erba piene come tacos. Sto soltanto pensando ad alzare i miei nachos. Non vuoi problemi con la gang, quindi alza i tacchi. 126 e 777, non c'è nessun altro. G-Block in zona, tutti fuori come a primavera. Fumiamo un sacco di fiori come a primavera. E se non sai chi siamo è Dark Gang 777. In giro con una banca in tasca tipo PNL. Dimmi cosa ti serve, bianca, la gialla o la verde. Serviamo stronzi come fossi un cameriere. Rappers di strada parlano da delle camerette. In una camera in 7 case senza acqua corrente. Vuoi fottere la gang, ma è la gang che fottera te. Dal Polo, Rio nei Monti, 126 Trastevere. Numeri sul braccio come un messicano. Giro per la strada con i miei hermanos. Ansia, pacche e buffi, tutto ciò che abbiamo. 1, 2, 6, il nostro corano. Numeri sul braccio come un messicano. Giro per la strada con i miei hermanos. Ansia, pacche e buffi, tutto ciò che abbiamo. 1, 2, 6, il nostro corano.